Ecco, io vorrei spezzare una lancia in questo senso anche per la scuola musicale di Fiesole, che è stata sempre all'avanguardia in tutto il mondo ed è veramente... come dire, una fiaccola proprio per la cultura italiana e che non sta, la direttrice me lo confermerà, sta come tutte le istituzioni culturali e tutte le scuole patendo insomma a livello di finanziamenti, e sarebbe veramente un peccato. Io per esempio ho mia nipote americana che è venuta, che in questo momento è a Fiesole e studia violoncello, ed è venuta dagli Stati Uniti per studiare lì. Ecco, e quindi noi abbiamo delle situazioni di alta eccellenza che come altre cose sono a rischio. A proposito della scuola di musica di Fiesole, dove si è tenuto un convegno sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, un convegno internazionale musica e società, in quell'occasione mi piace leggere, c'è un messaggio del maestro Claudio Abbado che spiega un po' le ragioni, no, di queste orchestre musicali, e ve ne leggo una delle due, poi potete leggerla sul nostro sito, perché mettiamo questo scritto del maestro Abbado. La gioventù è stata letteralmente depredata da prospettive credibili per le quali valga lo sforzo e la gioia della realizzazione. Non solo chi è nel disagio, ma forse anche più chi abita il benessere, viene manipolato per diventare un conformista, un animale compratore, un ebete che si nutre solo di superficialità. Una vita piena di musica e di cultura è sicuramente un argine a tutto ciò. Chi ha avuto il privilegio di crescervi, faccia, come proviamo a fare oggi, qualcosa perché altri vi crescano a loro volta. Io ho trovato questo messaggio di Claudio Abbado molto toccante, non l'ho fatto leggere da uno speaker, ve l'ho letto io, ve lo potete trovare anche sul sito, sulla pagina di Essere Benessere. Rimarrei qui a continuare a fare musica insieme a voi. Io sono certa che le parole di oggi abbiano toccato il cuore di molti dei nostri ascoltatori, e proveremo ad ascoltare musica con un, no, con maggiore attenzione. Magari a qualcuno di noi verrà voglia, a me è venuta, di imparare a suonare uno strumento. Che meraviglia. Proverò a gennaio con la fisarmonica. Poi vi farò dire. Ma si può anche iniziare a imparare ad ascoltare, per esempio a forzarsi ad ascoltare delle cose un po' al di fuori della propria abitudine, della propria consuetudine. Ma soprattutto si può imparare a fare musica. A fare musica insieme. Io devo salutarvi, ringrazio Adriana Verchiani, la dottoressa Lopez, Eugenio Finardi e Luciano Ballabio. Voi che ci avete seguito, buona giornata da Nicoletta Carbone.